GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Subito, appena battuta dalle agenzie, una notizia che ci riporta al momento più critico del periodo a cavallo tra il 2011 e il 2012. La BCE, l'acquisto dei titoli nazionali. Bene, tra il 2011 e il 2012, quando intervenne comprando titoli di Stato dei paesi in difficoltà, la BCE ha acquistato 102,8 miliardi di euro di bond italiani. È la quota maggiore tra i paesi dell'eurozona beneficiari. In seconda posizione, si fa per dire, la Spagna con 44,3 miliardi, poi la Grecia con 33,9. Ed ora, solo 17 anni fa, nemmeno l'1% degli europei sapeva usare internet. Oggi non si contano i dati personali trasferiti e scambiati attraverso i continenti e per l'intero pianeta in qualche frazione di secondo. La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale di tutti gli europei, così diceva il commissario europeo Viviane Reding quando lo scorso anno presentava la proposta della Commissione per una riforma globale della normativa UE che regola la questione dal 95. Un tema senz'altro complicato, non facile da capire nemmeno da raccontare, ma un tema molto importante, uno di quelli in cui l'Unione Europea legifera per tutti noi. Come vuole il meccanismo dell'UE, la proposta adesso in Parlamento. Entro il 27 di questo mese vanno depositati gli emendamenti. Poi si procede verso un quadro che, pensate, riguarda 23 milioni di piccole e medie imprese. Si tratta del provvedimento complessivo sulla tutela dei dati sensibili, appunto. Allora cerchiamo di approfondire questo tema. Oggi abbiamo raggiunto Salvatore Iacolino, parlamentare italiano, vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, che ha in carico il provvedimento. L'obiettivo è quello di creare in Europa un modello di riferimento da utilizzare in tutti gli Stati membri. Certo, l'esperienza francese è una sorta di apripista, cioè l'esigenza di coniugare il diritto di proprietà con il diritto di presa, non penalizzando particolarmente su una questione, quella della protezione dei dati sensibili, le imprese. Riteniamo tuttavia che in Commissione Libertà e Giustizia si potrà trovare un punto di equilibrio che garantisca un'analisi concreta del fenomeno, caratterizzato da un approccio basato su rischi concreti e che contemperi le esigenze di libera iniziativa, di intraprendenza di iniziativa, con la tutela della protezione, del diritto alla protezione dei dati sensibili, proprietà intellettuale e tutti quegli altri aspetti che sono a questo inscindibilmente collegati. Salvatore Iacolino, dunque, quando cita la Francia si riferisce al recente accordo tra l'Eliseo e Google. Pensate, circa 1.000 miliardi di euro nel 2020. Questo, secondo uno studio di Boston Consulting, il valore dei dati personali raccolti su internet o tramite i servizi digitali. Una torta importantissima intorno ai quali si sta giocando tra UE e Stati Uniti una vera e propria battaglia fatta anche di norme. Bene, oggi una edizione interamente di fatto dedicata a questo capitolo. Siamo in conclusione, l'appuntamento con GR Europa come sempre domani poco dopo le 15. Un saluto. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.